Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Gay e ignoranza. La registrazione seguente riguarda un tentativo di coming out familiare abortito. La prima parte, un monologo del padre alla moglie, è la trascrizione quasi integrale di una intervista registrata in Puglia alla fine di aprile 2005, poco dopo l'elezione di Nichi Vendola presidente della regione. Veniamo al testo. Chi? Quelli. Ma quelli che campano a fare? Te lo dico io che fanno quelli. Quelli pensano a una cosa sola, a far schifezze con gli uomini. Sono proprio pervertiti, sono proprio delle cose patologiche, hanno il cervello bacato. Ma io dico, te ne puoi andare con una donna e piglitelo, no? E invece no, quello dice, a me non mi piace. Ma se me lo dicesse Michele, sai come lo farei volare, ma lo farei come un pallone. Ma questi poi lights, e l'hanno portato loro a forza di fare schifezze, ma il Padre Eterno gliel'ha fatta pagare e ne sono crepati tanti. Che non è che uno può fare solamente il porco comodo suo e pensare che poi finisce là. E tutta quella cosa del gay pride, come cavolo si chiama, ma l'hai visto come vanno girando. Quello non c'ha nemmeno un poco di dignità, ma manco la peggio puttana, ma ce l'hanno in quella maniera. Ma io non so perché lo permettono certe cose. È uno spettacolo vergognoso, tutti mezzi nudi, e ci vanno pure i giornalisti, e lo fanno vedere alla televisione. Così ai ragazzi, come si deve, gli viene l'idea, e ci provano pure loro. Io mai non lo so proprio come lo permettono certe schifezze. Ma lo sai che dice Leonardo? Quelli che c'è al negozio sotto, vicino all'incrocio grande. Dice che è il figlio del macellaio Ricchione. Sì. Mamma, quello non me la contava giusta, eh? Ma l'hai visto come va girando? Che è quello, questa cosa, l'ha presa quell'altro. Lo ricordi? Quelli che lo chiamavano Ciao Bello, capito? Quello pure, me l'avevo visto insieme parecchie volte. E poi, quella è una cosa che si attacca, una specie di malattia, che se la passano l'uno con l'altro. Ma io l'avevo capito che quello c'era qualche cosa che non funzionava. Pensa tu, il padre e la madre. Ma se venisse Michele da noi e ci dicesse io sono Ricchione, madonna mia, ma come si fa a sopportarla una cosa simile? È una coltellata proprio, una cosa da andarsi ad ammazzare. Ma come fai ad andare in giro tra la gente normale? A noi il Padre Eterno ci ha fatto maschi e femmine, ma chi sono maschi questi? Sono uomini questi? Questo Ricchione e basta. Ma lo vedi tu come camminano? Lo conosci subito. Io dico, ma questi non ce l'avevano un padre e una madre, ma il padre e la madre non glielo sapevano dare quattro schiaffoni subito. Tu vieni da me, mi dici una stronzata simile e io non ti do uno schiaffo, ma io ti faccio un grugno così ti gonfio. Così ti passano tutte queste fantasie, capite? No, come fanno certi genitori, che quelli che i genitori non sanno fare proprio, che c'hanno paura dei figli. Hai visto tu, Michele nostro, come è venuto su bello, eh? Perché quello c'ha avuto i genitori come a noi, che non sono stupidi. Ma quella, Marcella, moglie del macellaio, ma l'hai visto pure a lei come si concia. Ma come fa un figlio a venire bene? Ma quello che esempio ci può avere? Se siete stupidi, un figlio così ve lo siete meritato. Ma boh, non buttiamo la croce addosso pure noi, che tanto quelli già ce l'hanno per conto loro. Certo che i ragazzi lo devono far curare, che quello mica può stare così. Quello può venire fuori un delinquente di brutto, sai, i pedofili, quelli che fanno tutte quelle cose con i ragazzini, quello sono. E li lasciano fare, ma dico io, ma rinchiudetela alla galera e buttate via la chiave. Ma di gente come a quelli, che ce ne dobbiamo fare? E poi, uno l'hanno intervistata alla televisione, vedessi tu quelli che ha detto del Papa. Tu non ci credi? E cavoli tuoi, che ce ne frega a noi? Ma quello, il giornalista insisteva, gli dava corda, lo faceva parlare. Ma noi la televisione che la paghiamo a fare, per stare a sentire a questi qua che dicono solo stronzate. E mo questo, l'hanno fatto pure il presidente della regione. Ma io dico, ma uno come a quello ci mettete? Ma metteteci un padre di famiglia, che è quello lì che ci sta a fare, ci sta per infilarci là dentro solamente tutte quelle come a lui. Certo, oh, per il padre e la madre è stata una disgrazia, però sono pure stupidi, ma dico io, ma come fate a non accorgermi che quella è una cosa che si vede subito, che i genitori devono sempre tenere gli occhi aperti. Se tuo figlio piglia una strada brutta, tu lo devi capire. Entra Michele. Ciao mamma, ciao papà. Ehi, ciao bella, hai finito quei libri? No, no, non ho finito. C'è una cosa che vi vorrei dire. Aspetta un momento. Io e tua madre stiamo parlando di quello che ci ha detto Leonardo. E che cosa ha detto? Ci ha detto che il figlio del macellaio è ricchione. Ah, ma tu pensi come stanno mo il padre e la madre? Madonna mia, sembra dicevi tu una cosa di questo genere, io ti ammazzavo proprio. Che per il padre e la madre quella è una coltellata. Ti puoi pigliare una bella ragazza, ti puoi sistemare bene bene, e invece che cosa ti metti in testa? Ma vabbè, va, povero a loro, quando ti pigli una disgrazia come quella, che deve fare? Michele, ma che ci dovevi dire? Mo' abbiamo interrotto, che ci dovevi dire? Niente, niente, non mi ricordo più, papà, ma non era una cosa importante. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.